non ha bisogno di presentazioni questa Fischia al Vento, forse sì, però lo farò e lo faremo insieme al nostro ospite che ci accompagnerà in tutta questa puntata di Zibaldone dell'8 luglio, ossia Alessio Lega, qui do subito il benvenuto a Zibaldone, anzi un bentornato perché Alessio Lega è stato in più occasioni nostro ospite. Ciao Alessio. Eh sì, bentrovati, di presenza. E di è così come oggi invece purtroppo a distanza. A distanza però insomma io credo che tornerai presto sicuramente a Barcellona e magari anche proprio con lo spettacolo che sta nascendo da questo tuo libro che presentiamo oggi e da questa puntata speciale di Zibaldone. Qui Radio Libertà è il titolo del nostro speciale a cui tu insomma ci hai dato un aiuto fondamentale e che parte dal tuo ultimo libro, La Resistenza in 100 Canti, un libro che hai curato tu, è uscito per i tipi di Mimesis da poco e che appunto raccoglie i canti della Resistenza, ossia non solo i canti dell'epoca, dei 2 anni scarsi della guerra partigiana, ma anche dei 70 e passa anni successivi, proprio per vedere come la Resistenza non sia stata una battaglia con le armi, ma come tu anche spieghi, con le canzoni. Anche con le canzoni, certo, non è pensabile senza le armi, questo per onestà bisogna pur dirlo, soprattutto perché poi ricorrono le polemiche in merito ai problemi, resistenza, non resistenza, armi, non armi, quindi come dire il destino ci mette continuamente di fronte dei nuovi crucci, dei nuovi dubbi in cui magari rispolverando i ragionamenti intorno alla resistenza possiamo orientarci, ma insomma questo per dire come questo libro è purtroppo per molti motivi più attuale di quello che non si possa sperare. Assolutamente. Ascolta, un libro così per dire due cose, ma poi in realtà ne parleremo durante tutta la puntata, che insomma comincia soprattutto la prima parte dedicata ai canti, agli inni, come tu li chiami, di un popolo in rivolta tra il settembre del 43 e l'aprile del 45, e che poi dedica invece praticamente un'altra metà buona del libro, perché le canzoni sono appunto i canti, sono 100, il periodo posteriore al 1946, ma anche in realtà ai canti antifascisti degli anni piccolo, 20 e 30. Sì, se dovessimo usare una terminologia impropria cinematografica diremmo che c'è un flash forward e un piccolo flashback. Sì. Ma insomma, di questo ne parleremo perché in realtà i canti, le canzoni che manderemo in onda in questa puntata speciale di Zibaldone in tua compagnia seguono un po' il fil rouge del libro e ci permettono di raccontare tante storie che tu raccogli appunto nelle pagine del tuo La Resistenza in 100 Canti, che sono alcune storie più conosciute, altre forse sconosciute ai più, e comunque la maggior parte sono delle storie straordinarie. Sì, erano frammentate in mille, non credo che ci fosse un altro libro che le raccogliesse, insomma, che seguisse il filo cantato della Resistenza per raccontarne non tanto la storia, che ora sappiamo che celato dietro quei microfoni di Zibaldone c'è uno storico, quindi sono persino un po' imbarazzato, però se vuoi invece, siccome da quest'altra parte c'è un cantastorie, che è una cosa un po' diversa, ecco, in questo caso mi faceva piacere stare all'inseguimento delle storie che stanno dietro la grande storia della Resistenza. Infatti, per spiegarlo anche ai nostri ascoltatori, questo tuo libro appunto è una raccolta di canti, ovviamente una selezione di canti, e ad ogni canto si associa una storia, una tua spiegazione, c'è qualcosa di più oltre al testo dei vari canti, e appunto insomma di alcune di queste storie, di alcuni di questi aneddoti li incontreremo in questa puntata. Io comincerei subito spiegando ai nostri ascoltatori, Alessio, perché abbiamo cominciato con Fischia al Vento. O voglio dire, Fischia al Vento è evidentemente insieme a Bella Ciao una delle canzoni più sintomatiche della Resistenza. Però abbiamo scelto una versione particolare di Fischia al Vento, e poi Fischia al Vento c'è anche un'altra ragione perché la mandiamo in onda. Sì, beh, allora, innanzitutto cominciamo a dire che se c'è un vero inno della Resistenza, intendo dire riconosciuto dall'unanimità non c'è mai, ma insomma dalla maggior parte dei partigiani, è proprio Fischia il Vento. Sì. Viene citata persino nel Partigiano Johnny di Fenoglio, per citare un testimone d'eccezione, un testimone scrittore e partigiano d'eccezione. E cosa ancora più interessante, un partigiano non comunista, un partigiano badogliano, almeno in origine, insomma, quando ha fatto la guerra partigiana. E, eppure lui stesso cita con parole di ammirazione questa canzone, che lui stesso dice, poiché così tremendamente sovietica, respingeva i partigiani che non si riconoscevano. E ciò non di meno, dice, questa canzone vale mille armi. Appena la sentono, i fascisti impazziscono. Piccola storia, la melodia viene da un canto russo, un canto russo che è anche una canzone d'autore, infatti si sente che è una bella melodia di gusto popolare, ma elaborata con una certa ricchezza. L'hanno imparata gli italiani mandati con l'Armir nella campagna di Russia. Sappiamo che molti di essi, tornando, cambieranno completamente idea, proprio scioccati da questa terribile carneficina, e che subiscono poi nel ghiaccio, con temperature. In particolare, ovviamente, ricordiamo due figure, una la troviamo spesso nel mio libro, ed è la figura di Nuto Revelli, e l'altra potremmo dire Mario Rigoni Sterni, insomma, cioè sono stati tutti testimoni, gente che ha raccontato quelle storie lì, che ha ritrovato le storie del ghiaccio della campagna di Russia poi nelle storie della montagna italiana. Bon, quella è la provenienza della melodia, ma le parole vengono scritte da un medico di Imperia, noto proprio come Umegu, cioè il medico per l'appunto, morto a soli 26 anni, morto nel senso fucilato, ma nemmeno dopo un processo, insomma, sparato in testa alla svelta da un gruppo di fascisti. Lui era stato uno dei primi partigiani sulle montagne della Liguria, una figura leggendaria, lo stesso Italo Calvino, che sappiamo era di Sanremo, e quindi tante cose tornano della nostra vita, Steven, e anche della vita musicale di questo paese. E appunto Felice Cascione, questo era il suo nome, scrive il testo di questa canzone, lo canta alla fine del 43, nel dicembre del 43, lo canta, pare, per la prima volta il giorno della Befana, e poi pochi giorni dopo, alla fine di gennaio, sarà ucciso in combattimento, ovvero catturato, ferito a una gamba e poi sparato in testa. La cosa, oltre ad essere appunto una canzone che così prende il volo, insomma, questo Felice Cascione, bello, giovane, antifascista, rivoluzionario, medico, è il nostro Che Guevara. Effettivamente, sì, possiamo fare questo paragone, hai ragione. È un Che Guevara che parlava un po' con l'accento ligure, ma d'altronde si sa che anche gli argentini spesso hanno origini ligure. No. Insomma, comunque, a volte sì. La prima cosa che mi viene da dire, anche dal fatto che sorridiamo raccontando, stiamo parlando della storia, ripeto, di una persona uccisa a 26 anni, che ha dovuto rinunciare rapidamente al lavoro che si era scelto, per cui aveva studiato prima fra mille difficoltà, essendo di famiglia antifascista, quindi avendo vissuto male, perché non c'è niente da fare. Queste canzoni sono tallonate dalla tragedia, hanno sempre una vitalità straordinaria, la vitalità di ragazzi di 20 anni che per la prima volta stavano vivendo una straordinariamente pericolosa, ma anche straordinariamente vitale esperienza. E ricorderei per ultimo una cosa che non abbiamo detto, poi passerei anche alla prossima canzone, che invece è un po' diversa, adesso lo ascolteranno, lo ascolterete tutti, insomma, che siete all'ascolto, che è la versione che abbiamo mandato in onda di Fischia al Vento, perché ce ne sono infinite versioni, ma questa ha a che fare molto con te. Sì, sono molto legato a questa versione, perché dei cari amici, se mi è permesso di dirlo, dei cari compagni che organizzano uno dei più bei festival di musica d'autore, popolare, ma anche molto legato alle tradizioni resistenti, e lo fanno proprio in un luogo che fu un rifugio partigiano, ovvero il festival Fino al Cuore della Rivolta di Fos di Novo, a due passi da Carrara. Nel periodo del lockdown e quindi del distanziamento necessario, il festival commissionò a me, ai miei collaboratori abituali, Rocco Marchi, Guido Baldoni, una versione di Fischia il Vento, sulla quale poi cantassero quelli che sono gli ospiti più consueti del festival, insomma ritrovarci per questa canzone da fare tutta assieme. Quindi, come dire, dal punto di vista della registrazione non è il non plus ultra, perché ognuno ha fatto la sua parte con un telefonino a casa, a parte la base che invece è stata registrata accettabilmente, però per noi ha il valore di una resistenza ulteriore. Assolutamente. Andiamo avanti, andiamo ad ascoltarci la prossima canzone, non diciamo neanche di chi è, vediamo se qualcuno la riconosce e poi ne parliamo insieme a te. Poppa d'olio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compagno Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglioni. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba, meritavi di prender la meba ed invece facevi milion. Ti ricordi la guerra di Grecia coi soldati mandati al macello ed allora per farti più bello rassegnavi le tue divisioni. A Grazzano giocavi alle bocce mentre in Russia crepava gli alpini. Ma che importa, ci sono i quattrini e si aspetta la buona occasione. L'occasione è arrivata la fine di luglio e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittatore. Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava padrone. Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavano le bombe e Vittorio calava i calzoni. I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà. Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione. Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è. Ed erano i Gufi, sì dai, forse l'avete riconosciuti, la Badoglieide, sì. Questa sì che è una canzone ironica, in fin dei conti, sì. Alessio. Ma ci tenevo particolarmente, e ci tenevo particolarmente a sottolineare, attraverso la versione dei Gufi, che ovviamente non è la prima né quella originale, ma una versione degli anni 60, nel mondo del cabaret milanese, proprio come un pezzo così schierato e così anche violento nella terminologia, nella forza, potesse diventare un pezzo da cabaret, tanto era ironico, anche decontestualizzato. E questo ci introduce innanzitutto in una banda partigiana per me straordinaria, e lo dico, lo sai, non c'è bisogno di nasconderselo, io sono libertario anarchico, invece le persone che hanno elaborato questo canto non erano anarchiche, non erano socialiste, non erano comuniste, diremmo che erano dei liberali, anche se dei liberal socialisti, no? Sai, cresciuti dietro il mondo dei Fratelli Rosselli. Il Partito d'Azione, certo. Esatto, il Partito d'Azione. Era il gruppo di Giustizia e Libertà, e in particolare il gruppo che si raccolse intorno a un martire importante della resistenza cuneese, che è Duccio Galimberti. Duccio Galimberti. Questi qui salirono, in particolare Duccio Galimberti, diciamo, era il coordinatore di queste cose, di questo gruppo qui, fece un discorso il 26 luglio, quindi quando ancora teoricamente noi eravamo alleati dei nazisti, a tutti gli effetti, anche se era appena caduto Mussolini e il fascismo, ma lui capì subito come le cose dovevano andare, quindi cominciò a raccogliere armi nel suo studio, poi grazie a due figure straordinarie, Dante Livio Bianco, un avvocato sempre di Cuneo, e Giorgio Agosti, che invece era un magistrato sempre antifascista, torinese credo lui, e insomma cominciarono a coordinare questo gruppo, salirono in montagna, prima all'inizio sembravano, dice, una banda di alpinisti così un po' squinternati, quindi erano dei ragazzi, Duccio Galimberti, che era il più anziano, ci aveva credo poco più di 30 anni, ma gli altri erano, cioè, si erano laureati da poco, non facevano i 30 anni, poi intorno a loro arrivarono dei ragazzini. E insieme a loro arrivò anche poi Nuto Revelli, che invece aveva un altro percorso, sì. Era militare di carriera e quindi, diciamo, aveva un po' più cognizione di come si doveva gestire quella che era una guerra. Insomma, però nelle lunghe veglie improvvisavano anche strofette. E a me fa effetto come il rigore morale di queste persone giovani unito alla voglia di divertirsi. Sì, assolutamente. E quindi questa è una canzone, secondo me, anche se ci pensiamo, anche un po' scioccante, perché è quasi più violenta nei confronti di Badoglio, che teoricamente è un loro alleato, cioè c'erano dei partigiani badogliani, come abbiamo ricordato, eppure è violentissima. E quindi, come dire, si vede nel sentimento di questi, anche se posto ironicamente, il bisogno di cambiare proprio pagina. Non è solo, io lo dico a volte così, non è solo il fascismo, non vogliono sconfiggere i fascisti, ma il fascismo in cui sono cresciuti, e quindi anche quello che si rispecchia nei badogliani, quindi nei monarchici, in gente che ha affrontato la vita coloniale. Cioè, ci sono qui tanti riferimenti, no? Ti ricordi la guerra di Etiopia, ti ricordi la guerra di Francia, cioè, ora sei stato complice, i milioni. Sei stato complice fino all'altro ieri quando ti conveniva, e ora ti presenti come uomo nuovo. Esattamente. Sì, insomma, evitare che ci fosse non una rottura, ma appunto una transizione dolce, mantenendo praticamente tutte le élite che avevano appoggiato, esatto, e si erano arricchite, avevano governato con il fascismo. Parlavamo di Nuto Revelli, ascoltavamo i Gufi. Ci andiamo, esatto, ad ascoltare ora, un'altra versione dei Gufi, di un altro testo di Nuto Revelli. Esatto. Sentiremo un frammento di un'altra canzone che è Pietà l'è morta, che si riferisce, in realtà è una canzone che sta, anche la precedente era in parte di Nuto Revelli, in parte di Dante Livio Bianco, in parte di altri collaboratori, erano strofette elaborate collettivamente. Questa qui invece sappiamo proprio che è di Nuto Revelli, è una canzone anche molto cupa, è scritta sul modello di una canzone che si chiama Sul ponte di Perati. Secondo me è una delle più belle canzoni degli alpini, struggente veramente, molto molto bella, sembra una canzone antimilitarista, e parla appunto dei soldati della divisione Giulia mandati in Grecia a morire, quindi un coro di fantasmi, e quella da cui è tratto il verso La meglio gioventù, che Pasolini sappiamo utilizzerà. La raccolta di poesie, esatto, quindi era molto sentita, e lui la riscrive dicendo appunto che l'alpino mandato a morire in Russia diventa partigiano e quindi maledice il fascismo che ce lo ha mandato, per cui è molto importante. Noi ne sentiamo solo un pezzettino perché sul modello delle canzoni degli alpini è piuttosto lunga, però un pezzettino vale ci la vuole pena di sentirlo. Pietà l'è morta, nella versione ovviamente dei Gufi, siamo sempre alla metà degli anni 60. Oh, Avete sentito che dopo un frammento della Pietale Morta nell'interpretazione di Goofy ci siamo sentiti un altro breve canto della Resistenza, Marcian Marcian, nella versione del gruppo di Piadena. Ecco, anche questa, innanzitutto il gruppo di Piadena, Alessio, importantissimo, ma un altro brano che ci introduce anche un altro tema. Sì, qui come abbiamo sentito la ritmica è scatenata, la canzone è una canzonetta probabilmente che ha origini ottocentesche, una canzone da bersaglieri che poi ha attraversato ed è stata riadattata al modello partigiano. La cosa secondo me fortissima, e questa invece è di ambiente diciamo cattolico, Fiamme Verdi, cosa così, cioè il partigiano che la scrisse era un partigiano cattolico ed era siciliano, anche lui, no? Tra l'altro. Esatto, Alfredo di Dio, ed era anche lui un militare di carriera, quindi quando dice non c'è tenente né colonnello né generale, un partigiano voglio sposar, e sta dicendo qualcosa molto importante per la sua vita proprio, ti sta dicendo che, come si dirà più avanti, l'obbedienza non è più una virtù, cioè non si deve più, quando gli ordini diventano immorali, bisogna obbedire alla propria coscienza, e quindi questo qui va a fare il partigiano, e sia lui che suo fratello cadranno in Valstrona, insomma nelle zone del Novarese, credo, ora, hanno fatto i partigiani partendo dalla Valstrona, poi si sono mossi verso l'Ossola e sono caduti insieme a una figura leggendaria di partigiano più borghese che si chiamava Beltrami, una figura veramente un'altra specie di Che Guevara, solo che questa volta era un architetto inserito nella bohème milanese che poi era sfollato in campagna e lì era stato recuperato da altri partigiani che aveva detto dai andiamo. Sono dei personaggi tutti straordinari, di una vitalità straordinaria questi qui. Purtroppo hanno spesso fatto una pessima fine, giovanissimi poi. Ma sì, ma poi però l'errore forse più grosso che potremmo fare, che per certi versi si fa, è quello di istituzionalizzarli in figure così nel loro stesso monumento. Invece era gente che voleva vivere libero. Sì. Sì. Beh, come dice Valerio Romitelli nel suo libro La felicità dei partigiani, era proprio anche questo, no? La felicità, che poi ovviamente questa immagine della felicità dei partigiani che lottavano per la vita, ma lottavano per vivere innanzitutto e anche per vivere in altro modo, si è poi persa col passare dei decenni, spesso con l'istituzionalizzazione della resistenza nell'Italia posteriore al 45. Esatto, soprattutto sì, a partire dagli anni 60. Infatti, in un certo senso, lo affronteremo più avanti, il passaggio dell'inno da Fischia il vento, che comunque è più aggressiva, a Bella Ciao, probabilmente ha qualcosa a che fare, ma magari ne parliamo quando parliamo di Bella Ciao. Effettivamente. Invece ora andiamo avanti, perché abbiamo parlato di canti che venivano, insomma, anche da ambienti più moderati, per così dire, per quanto radicali, ma ideologicamente parlando. Ora andiamo invece ad ascoltarci un canto anarchico. Eh sì. E però, come spesso la storia gioca a incastrare in maniera strana le cose, né più lo si studia questo canto, più sembra che provenga invece da un canto, il suo modello fosse un canto diffuso sempre in ambiente giellista, sempre in ambiente di giustizia e libertà, e che poi su questo gli anarchici cantassero delle loro altre strofette. Ci sono pochi canti anarchici direttamente connessi alla resistenza. Noi sappiamo che ci furono ovviamente delle bande, delle formazioni esplicitamente anarchiche nei luoghi dove gli anarchici avevano mantenuto una loro forte permanenza, quindi Carrara, la Lunigiana, la Garfagnana, queste cose qui, la Romagna per altri versi. Ci furono dei singoli comandanti anarchici anche importanti, inquadrati magari in divisioni garibaldine, però il movimento anarchico dopo la batosta della guerra di Spagna non era, come dire, non era certo egemone, questo bisogna riconoscerlo. E quindi a maggior ragione questo canto, per la sua rarità, possiamo dire così, per il fatto che è molto importante. Volevo dire che però molti canti garibaldini, socialisti, derivano da canti anarchici. Per cui c'è anche questo, invece, questo gioco di scambio. Sì. Vabbè, ma in fin dei conti, se pensiamo che la prima versione dell'Internazionale, prima che venisse scritta la musica, è sulla base della Marsigliese, capiamo sempre questo gioco di rimandi che parte sempre da delle melodie conosciute all'epoca. Comunque, bando alle ciance, andiamoci a ascoltare questa versione dai Monti di Sarzana nella versione di Michele Straniero. Momenti di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera. Noi la faremmo morire. Dai Monti di Sarzana un dì discenderemo, allerta partigiani del battaglion Lucetti, il battaglion Lucetti. Son libertari e nulla più, coraggio è sempre avanti, la morte nulla più. Coraggio è sempre avanti, la morte nulla più. Bombardano i cannoni dai Monti Sarzanelli, allerta partigiani del battaglion Lucetti. Più forte sarà il grido che salirà lassù, fedeli a Pietro Gori noi scenderemo giù, fedeli a Pietro Gori noi scenderemo giù. dai monti di Sarzana. Alessio, ora parliamo di una canzone che, se io dico il titolo, la prossima che ci ascolteremo, molti di quelli che sono in ascolto, a molti non dirà nulla, Dalle belle città, però in realtà se diciamo... Ma perché è nota col capoverso del ritornello, siamo i ribelli della montagna. Esattamente. E esattamente. Diciamo... esprime, chiaramente riprende il modo in cui i nemici li chiamavano. I nemici no, non li hanno mai chiamati partigiani, li hanno sempre chiamati ribelli. Eh sì, o i banditi. O banditi addirittura. E pensiamo anche al, però, al film Achtung Banditen, no? Esatto. Uno dei grandi film. E appunto, questa canzone ha una particolarità. Abbiamo sottolineato diverse volte come le altre canzoni derivassero da melodie precedenti. È abbastanza ovvio, la guerra partigiana metteva le persone che vi partecipavano in condizione di non avere certo dietro pianoforte, orchestre, qualche volta una chitarra, così per improvvisare, ma non c'era tempo di mettersi lì a elaborare melodie. Quindi si utilizzavano melodie già conosciute, che provenissero dalla tradizione... per i più anziani, diciamo così, dalla tradizione politica precedente al fascismo, però precedente di 20 anni, quindi, come dire, dovevano essere veramente un pochino anziani. Oppure per i più giovani, che erano l'assoluta maggioranza fra i partigiani, erano canzonette della radio o addirittura canzonette fasciste che avevano imparato durante il servizio militare. Regime. È certo. Esatto, per cui è molto interessante, però proprio... questo, questo cambio di prospettiva gli fa acquistare un valore ulteriore. In questo caso invece abbiamo l'unica che io sappia canzone partigiana interamente originale. Anche infatti tu la definisci, cioè, nata a tavolino, voglio dire, insomma, che si sono, esatto, proprio seduti e hanno scritto testo e musica. Esatto, c'è stato appunto un autore del testo e c'è stato un autore della musica, sono entrambi conosciuti, l'autore della musica per fortuna è sopravvissuto, invece l'autore del testo è è una delle vittime del massacro della Benedicta. Per cui Emilio Casalini, detto Cini, no, Bini, com'è? Cini. Esatto. E invece la cosa interessante della musica, tra l'altro, è che l'autore Angelo Rossi, ossia alias Lanfranco, che insomma poi negli anni posteriori al 45 girò mezzo mondo, no? Come orchestrale. Era un maestro di musica, sì, sì, sì. E lavorò anche con un crooner che io amo molto. Con che Marino Barreto. Sì. Era un vero musicista, sì, sì. Negli anni, credo ancora negli anni 70 sia stato intervistato da un nostro amico ricercatore che si chiama Franco Castelli. Per cui sì, ha continuato a fare questo mestiere, cosa che, come dire, ci riporta alla mente che i partigiani molto spesso, finita la loro missione, quando per fortuna sono rimasti vivi, sono senza tante ambizioni di vivere del loro passato, sono tornati a fare il mestiere per il quale avevano studiato, che... aspiravano, sì, a fare. E la versione che ci ascoltiamo di Dalle belle città, ossia I ribelli della montagna, è di Mario De Micheli. Esatto, un altro, in questo caso per nulla un cantante, anche se sentirete aveva una bellissima voce profonda, impostata, bella, ricca. In realtà lui è stato un insigne storico dell'arte, con ovviamente un particolare interesse per l'arte della resistenza, ha fatto, per dire, per le avanguardie artistiche in generale del Novecento, e anche per il vignettista, forse il più importante, il principale vignettista del socialista, ovvero Scalarini, il leggendario Scalarini, ha scritto. Sì. Giuseppe Scalarini. Esatto. Andiamo ad ascoltarci questa versione. Dalle belle città date alle mie, fuggimmo un dì su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i muscoli e il cuore in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna Sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiana è la forte ardente schiera. Per le strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. E dai ribelli della montagna, adesso questa volta facciamo un salto geografico, perché andiamo fino in Slovenia e ci andiamo ad ascoltare una canzone che è in sloveno. Non so se lo pronuncio bene. Sivala Jedeklica Zvezdo. Ma sicuramente chiedo scusa a chi ci sta ascoltando magari dalla Slovenia. Perché mandiamo in onda questa canzone? Beh, come sappiamo, i partigiani titini sul confine orientale, insomma, spesso, cioè, Trieste è stata una città contesa ben al di là della fine della guerra. E quindi, come dire, in quel luogo lì, che era già stato martoriato durante il fascismo dal tentativo di supremazia etnica italiana, con la cancellazione dei cognomi, insomma con interventi anche molto duri sulle popolazioni slovene, insomma, durante la resistenza vide associarsi, ahimè, in maniera a volte terribile, l'idea appunto che gli sloveni fossero tutti antifascisti e che, o quantomeno i partigiani, sì, insomma, poi veniva da questa idea qui, e che invece gli italiani fossero tutti fascisti, cosa che ovviamente non era vero. Però questa cosa qui portò a un conflitto che, se in altre zone d'Italia c'era pure, fra partigiani di diverse ideologie anche contrapposte, lì in quelle zone di confine arrivò allo scontro sanguinoso. Tutti quanti, credo, abbiamo almeno nell'orecchio questo nome che evoca la tragedia, che è Porzus, una malga in cui un gruppo di gappisti titini irruppe e fucilò dei partigiani invece osovani, quindi diciamo fedeli al re in quel caso. Il contrasto è violento, poi per una incredibile analogia, ma veramente strumentalizzante, alla tragedia di Porzus viene spesso accostata quella delle foibe. Eh sì. E queste due cose sono diventate due armi in mano, o meglio, vengono usate come armi dalla destra, ecco, in funzione, ecco, antipartigiana. Ecco. A me sembra una cosa abbastanza assurda, perché chi comunque aveva caricato la dinamite sulla quale si accese la miccia di questo ennesimo conflitto era stato proprio il fascismo, con una politica assurda che privilegiava gli italiani, che appunto aveva cambiato i nomi agli sloveni, insomma, ferite che poi diventano difficili da rimarginare e che, nel momento in cui il linguaggio passa alle armi, rischiano di esplodere. Io non voglio sciogliere un nodo incrostato di sangue, Fra l'altro ci sono anche due. Ma guarda, ricorderei sì, a questo proposito anche un bel saggio di Adriano Sofri uscito qualche anno fa nel 2019 per i tipi di Sellerio, che è Il martire fascista, che proprio permette di contestualizzare, no, quello di cui tu stai parlando negli anni precedenti, negli anni della dittatura, sul fronte orientale, insomma, quindi nella zona, diciamo, istriana, per così per capirci. Sì, poi anche per ci sono due vittime, diciamo, che hanno due nomi molto noti, due cognomi molto noti fra le vittime di Porzus, ovvero Guido Pasolini, il fratello del poeta, che nonostante avesse avuto appunto suo fratello pure amato, fucilato, era lui stesso invece comunista, quindi vabbè, un'altra delle... dei tanti drammi ulteriori della sua vita. Però evidentemente non era così netta la separazione, ecco, per Pasolini evidentemente restava il fascismo il colpevole e principale, seconda, della morte. La seconda vittima? E la seconda si chiama Francesco De Gregori, e non è un caso, perché è proprio lo zio del cantautore. E quello era il comandante della Brigata Sovana, un militare di carriera, nome di battaglia Bolla, e fu, insomma, andarono a fucilare proprio lui, sostanzialmente. Andiamo ad ascoltarci questo canto, sì, in sloveno, e poi dopo già un'altra canzone che ci introduce una serie di altre questioni di cui parleremo insieme a te nell'ora più o meno che ci rimane qui su Zibaldone Radio Contrabanda. Свободні, свободні, проч темне ночі.

e che interpretano con una con un multilinguismo musicale straordinario, mettendoci dentro appunto cori che derivano da tante tradizioni diverse. Quindi può essere anche una versione vagamente scioccante per chi è abituato alle versioni consuete di questa canzone, ma mi sembra importante proprio reinterpretarle per non farle morire, per trasmetterle. Quindi per me era importante. La canzone in sé si chiama Festa d'Aprile, quindi ci appare subito evidente che viene all'indomani della liberazione. Sarebbe stato anche Menagramo, no? Poi magari in aprile, cioè, le cose non andavano bene. Ma in realtà è proprio un passo di qua e un passo di là. Intendo dire, le strofette esistevano già, vennero rielaborate da un altro grande intellettuale piemontese che si chiamava Franco Antonicelli, e consegnate per uno spettacolo specifico a Sergio Liberovici, che vi scrisse sopra una nuova musica ispirandosi a quella originale sulla quale venivano cantate, ma appartenevano a una storia che io conoscevo solo per sentito dire e che, approfondendo, mi ha commosso, divertito, fatto innamorare, che è la storia di questa Radio Libertà. Tutti noi sappiamo che c'erano delle radio, diremmo noi, di controinformazione, ovvero c'era Radio Londra, che appunto era la radio ufficiale degli alleati, della voce alleata che avanzava. Poi c'erano le radio delle città liberate, Radio Bari Liberata, che poi divenne Radio Napoli, Radio Firenze, Radio Roma, Radio Firenze, e poi Radio Milano Liberata, quella da cui venne data l'annuncio, no, con la voce di Pertini famosa. Esatto. Quella lì. Ma queste erano radio che in qualche misura, non è che non rischiassero, ma insomma stavano al di qua del fronte. Invece Radio Libertà è una radio che agiva nella zona occupata dai tedeschi, era proprio una radio partigiana. Quindi sostanzialmente devi immaginarla come una cosa del tutto pionieristica. Era una ricetrasmittente che era stata rubata all'aeroporto di Cameri da un gruppo di partigiani biellesi, in particolare da un farmacista che si chiamava Sandro Berruto, nome di battaglia Sam, che aveva proprio la passione della radio e era convinto che i partigiani dovessero avere una loro voce, un po' per tenere in contatto la città, i parenti rimasti in città, con i partigiani in montagna, nascosti, in clandestinità, un po' anche per minare il morale delle truppe fasciste e dei tedeschi, che ovviamente ascoltavano Radio Libertà. Ma la radio fu fatta in situazioni di assoluta emergenza, cioè la ricetrasmittente veniva nascosta in un pollaio sotto il fieno per non essere trovata, poi veniva tirata fuori, l'antenna la si appoggiava a un albero lì di fianco, si trasmetteva in situazione, ogni tanto passava un rastrellamento vicino, e ci sono queste storie qui, no? Con rastrellamento che passa vicino, e loro non potevano permettersi di smettere, perché se avessero smesso di colpo avrebbero segnalato la loro presenza, proprio perché erano ascoltati anche dai fascisti. Quindi tu pensa con che spirito andavano avanti. E la radio non era solo una radio di pura informazione, aveva appunto le sue canzoni. Canzoni composte dai partigiani stessi e canzoni i cui testi a volte erano suggeriti dagli ascoltatori. Altra cosa, la radio riceveva corrispondenza, tu dirai come faceva? Io posso solo immaginare che qualcuno impostasse una lettera anonima come indirizzo Radio Libertà e poi ci fosse un sistema di postini, di staffette, che simpatizzanti dei partigiani che riuscivano a farlo di mano in mano arrivare alla radio. Però è reale questa cosa qui. Quindi alcune strofette di queste, che poi sono finite in Festa d'Aprile, sono il frutto di una vera collaborazione collettiva, di una vera voce collettiva. E c'era a un certo punto, per esempio, un'altra delle storie straordinarie di Radio Libertà. A un certo punto intercettano un professore di musica vero, professionale, che si chiamava Hans Stricker, ed era un ebreo viennese che si era finito lavorando nelle balere, era finito a Torino, Poi da Torino si era nascosto, era sfollato, perché cominciavano ad esserci un sacco di nazisti, e i nazisti, sentendo uno che parlava con accento viennese, si sarebbero insospettiti. Quindi questo si nasconde, però viene intercettato dai partigiani, che invece lo sentono parlare con accento che per loro è tedesco e lo vogliono fucilare come spia. Per fortuna viene riconosciuto da un altro musicista che aveva lavorato con lui, e quindi questo qui si salva per il rotto della cuffia, ma passa direttamente dal plotone di esecuzione a Radio Libertà. È una storia fantastica. È fantastica. Poi la radio trasmette ininterrottamente, trasmetteva ogni giorno. Solo il 20 di aprile, nel corso di una delle battaglie finali per la liberazione di Biella, viene trovata e distrutta, ma soli cinque giorni dopo, insomma, la liberazione di Biella riprende a trasmettere, occupando la sede di una radio invece fascista che aveva sede a Biella. Però a quel punto gli stessi animatori mollano presto il colpo, perché ormai si erano scocciati, a loro piaceva andare in giro, suonare, erano dei ragazzi, non avevano voglia di chiudersi nella radio, non volevano fare la radio professionalmente, per loro era stata questa esperienza qui. Però l'idea che ci fosse questa radio che accompagnava e trasmetteva, e che, ripeto, non aveva solo una funzione di controinformazione, aveva una funzione ludica vera e propria. Cioè, questi cercavano a un certo punto, una cosa divertentissima, trovo. Allora, Sandro Berruto, che peraltro era anche balbuziente, per cui con la radio, insomma, aveva delle difficoltà. Insomma, aveva un discreto handicap. E quindi lui scriveva i testi, insomma, faceva il direttore della radio, ma non faceva lo speaker lui stesso. E poi era alla eterna ricerca di collaboratori. A un certo punto intercetta fra i partigiani un tenore, bravissimo, proprio diplomato al Conservatorio di Torino. Cioè, lo mette a cantare e poi lo deve licenziare, si fa per dire, nel giro di una sola trasmissione, per questo cantava troppo bene e si sentiva troppo la sua voce. E quindi, siccome questi lavoravano sotto delle coperte, che servivano, certo, era un po' rischioso, era un po' rischioso. E sì, non si sentiva troppo. Ascolta, con Festa d'Aprile, però, con quello che tu ci hai raccontato, passiamo anche al post 1945, il post 25 aprile, e adesso troviamo un'altra canzone che è rinomatissima, certo, e che è diventata una canzone ormai quasi tradizionale, che è Per i morti di Reggio Emilia, nella versione ovviamente di Fausto Amodei. Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo qui con te. Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento e urla la bufera. A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Marino Serri è morto Afro Tondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi. Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare. Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantare con noi, bandiera rossa. Fuori a cantare con noi, bandiera rossa. Per i morti di Reggio Emilia, Fausto Modei, questa è una canzone, Alessio, no, che è forse una delle poche del dopoguerra, come tu anche racconti nel libro, che è entrata nell'immaginario collettivo. Sì, e senza avere una, come dire, una carriera attraverso le radio o la discografia ufficiale, ovvero fu registrata ma in condizioni semi-clandestine anche. Allora, collochiamo un attimo, è una canzone della fine degli anni 50, anzi è una canzone del 60 indiscutibilmente, perché parla dei fatti avvenuti a Reggio Emilia il 7 di luglio del 1960, durante la crisi del governo Tambroni. Esatto, quindi la repressione violentissima e l'uccisione di alcuni manifestanti pacifici, di cui alcuni ovviamente erano ex partigiani, perché alla fine stiamo parlando a 15 anni dalla fine della guerra, quindi è del tutto pensare che aveva 20 anni faceva il partigiano, ne aveva 35 poi. Per cui alcuni di questi vengono uccisi dalla polizia italiana questa volta. E questa canzone non solo è una canzone molto bella, scritta da un autore straordinario che è uno dei pionieri e anzi ormai credo il decano della canzone d'autore italiana, perché con i suoi più che 80 anni, insomma, lo salutiamo, lunga vita a Fausto Modei. Che assolutamente. Hanno appena pubblicato un suo disco di registrazioni fatte qualche tempo fa di versioni piemontesi da Georges Brassens, sì. Quindi diciamo continua ad essere in attività in qualche modo. Sì, l'anno scorso ha partecipato al Tenco, è stato veramente toccante il suo concerto, la sua partecipazione. Sì. Benissimo. E dunque, però questa canzone va oltre Fausto, posso dire. In questo caso veramente è una canzone che per me simboleggia un momento importante della storia della collettività del nostro paese. In qualche misura con questa canzone viene sancita, dal punto di vista della canzone ovviamente, la fine dell'illusione che la Repubblica sia frutto delle lotte partigiane. Perché alla fine cosa si dice in questa canzone? Cioè tutta la canzone è costruita sul parallelo, dice come Ovidio Franchi, Afro Tondelli, cioè con i nomi dei morti a Reggio Emilia, dice come loro, per chi I si è già scordato partigiani. Di Duccio Galimberti, proprio il nome, o i fratelli per Cervi. I fratelli Cervi, quindi in qualche modo dice questi nuovi martiri sono i nuovi partigiani. Sì. Quindi se gli uccisi sono i partigiani, gli uccisori sono i nuovi fascisti. E quindi la polizia di Scelba, in sostanza, viene bollata in questa maniera. Ed è la polizia della Repubblica Italiana, democrazia teoricamente antifascista. No, e questo si lega anche... Nel 60 si rompe definitivamente questo sogno. Effettivamente, e qui si lega anche al discorso del mito della resistenza tradita. Esatto. Sì. Andiamo avanti e troviamo, siamo negli un po' dopo, 1965, la ballata dell'ex, dalla voce meravigliosa di Sergio Endrigo, ce l'ascoltiamo. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano, la notte solo il vento gli faceva compagnia, laggiù nella vallata è già pronta l'imboscata, nell'alba senza sole eccoci qua. Qualcuno il conto oggi pagherà. Andava per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Il mondo un mondo cane, ma stavolta cambierà. Tra poco finiranno i giorni neri di paura. Un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Soli 5 anni questa guerra è già finita, è libera l'Italia, l'oppressore non c'è più. Si canta per i campi dove il grano ride al sole, la gente è ritornata giù in città. Ci sono nell'aria grandi novità. E scese dai suoi monti per i boschi fino al piano, passava tra la gente che applaudiva gli alleati, andava a consegnare mitra, barba e bombe a mano. Ormai l'artiglieria non serve più, un mondo tutto nuovo sorgerà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Torna al suo paese che è rimasto sempre quello, con qualche casa in meno ed un campanile in più. C'è il vecchio maresciallo che lo vuole interrogare, così per niente per formalità. Mi chiamano Danilo e sono qua. E vogliono sapere perché, come, quando e dove, soltanto per vedere se ha diritto alla pensione. Gli chiedono per caso com'è andata quella sera che son partiti il conte e il podestà, e chi li ha fatti fuori non si sa. E chi li ha fatti fuori non si sa. E galantuomo, io son figlio di nessuno. 20 anni son passati e il nemico è sempre là, ma i tuoi compagni ormai non ci son più, son tutti al ministero all'aldilà. Ci fosse un cane a ricordare che andavi per i boschi con due mitre e tre bombe a mano. Un mondo tutto nuovo sorgerà, per tutti l'uguaglianza e la libertà. Per tutti l'uguaglianza e la libertà. Sergio Endrigo è stato senza dubbio, Alessio, uno dei più grandi cantautori italiani, forse anche uno di quelli più dimenticati. La sua voce è splendida, ma tra l'altro questa canzone non solo, no, ci collega a un cantautore, a un uomo insomma impegnato e con dei valori molto chiari, ma che tra l'altro aveva avuto anche insomma una vita e un passato che sicuramente insomma tutte queste vicende gli suonavano anche per dove... E beh, per riprendere le stesse cose che dicevamo a proposito di Pasolini, sì. Sergio Endrigo era istriano, nato a Pola, quindi era stato costretto all'esilio Giuliano Dalmata, per cui, anzi, dedica a quella vicenda una canzone meravigliosa. Da tanto tempo non l'ho rivista più. Ecco, guarda caso, questa canzone, come anche quella che abbiamo appena ascoltato, sono fra le canzoni meno conosciute di Sergio Endrigo. E possiamo anche dire che in qualche modo sono canzoni che meritano un riscatto, questa in particolare, perché ovviamente sono state rifiutate da chi di Sergio Endrigo aveva la visione del cantore dei sentimenti, Io che amo solo te, canzoni meravigliose, però come dire, che lo lo legavano a un personaggio molto statico, del cantore triste, esistenzialista, degli amori infelici. Invece Endrigo è quello, ma è anche altro, è anche il cantore dell'epica partigiana, della resistenza tradita, perché è esattamente lo stesso tema. Però in qualche modo queste canzoni, proprio perché venivano da Endrigo, uno che comunque era di casa in televisione negli anni 60, non sono nemmeno state adottate dal movimento, che invece adottò canzoni come quella di Fausto Amodei. Quindi secondo me meritano di essere sottolineate, con un plauso particolare per Sergio Endrigo, che aveva il coraggio di toccare temi rischiosi, e perché è stato doppiamente sfortunato, perché nel toccare questi temi rischiosi non solo ha rischiato di giocarsi la carriera sua, ma non ha nemmeno acquisito un pubblico che lo difendesse. Prima parlavamo, anzi prima ci siamo ascoltati questa canzone slovena, no? lo ricordavamo prima, ne abbiamo parlato, ce ne sono state tante altre di canzoni, diciamo, fuori dalle frontiere italiane che hanno cantato i partigiani, la resistenza, e una è questa di Leonard Cohen, Partisan Song. Testo non è proprio suo, adesso ne parliamo, ma prima ce l'ascoltiamo. No, nemmeno la musica, ma magari ne parliamo dopo averla sentita. Esattamente, prima la sentiamo e ci godiamo la voce del grande bardo canadese. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Partisan Song nella versione anglo-francese di Leonard Cohen, una canzone che non è degli anni 60, Alessio, ma insomma è stata scritta no, proprio... È negli anni sì, 40. Sì, una vera canzone del 43, una vera canzone dei partigiani francesi, anche se come tradizione da quelle parti lì è una canzone d'autore, di un autore letterato che si chiamava Dastier de la Vigerie e la cui musica e il cui canto originale furono elaborati da questa Anne Marly, che era una performer varia, un'attrice cantante di origine russa, pensate, chitarrista anche con uno stile molto particolare, e che fece quella che è anche l'altra canzone celebre della resistenza francese, anzi più celebre di questa qui, che è Le Chant de Partisan, che cantò anche Yves Montand, la cantarono in tanti, insomma è un po' la loro Bella Ciao, diciamo così. E invece questa canzone più scura, più dolorosa anche, era un po' meno conosciuta, ma la riprese Leonard Cohen, che ne ha fatto una versione che è diventata molto più celebre dell'originale e che l'ha rilanciata. Quindi mi piaceva proprio questo gioco di specchi, tenendone peraltro una parte in lingua originale, tenendo una parte in francese. Sì. Per cui un autore così intenso, ma anche che non possiamo certo definire un cantastorie, nel senso un autore con riferimenti biblici, con un linguaggio anche aulico, immaginifico, eccetera, decidesse di fare una canzone invece anche così dura, insomma, mi è sempre sembrato una scelta notevole. Ora andiamo ad ascoltarci due brani di Paolo Ciarchi, che insomma tu hai conosciuto bene, e diciamo queste due canzoni si inseriscono anche nell'ultima parte del tuo libro. Parliamo del Comandante della mia banda e La Gap, ossia diciamo il nuovo canzoniere partigiano, lo potremmo definire, tu lo definisci esatto. Nuovo cantastorie partigiano, le canzoni praticamente dalla fine degli anni 50 all'attualità, insomma ricorderei Mamì o Sei minuti all'anno L'alba, tra quelle forse più conosciute. E queste canzoni di Paolo Ciarchi hanno a che fare anche con un bellissimo spettacolo che fu messo in scena nell'ottobre del 70. Sì, era uno spettacolo completamente dedicato alla resistenza italiana, ovviamente, quindi all'idea, pienamente nell'idea della resistenza tradita. Sentirete che, per dire, nella Gap c'è invece un'aggressione al Partito d'Azione, di cui noi invece abbiamo parlato così bene, credo un po' ingenerosa dal punto di vista. Gli autori erano altri anni. L'autore del testo erano è Dario Fo, ovviamente. Sì, certo. No. Le musiche comunque di Paolo Ciarchi e i testi di Dario Fo. Sì. E ricordiamo magari anche il nome dello spettacolo, perché è molto bello. Vorrei morire anche stasera, se dovessi sapere che non è servito a niente. se dovessi pensare che non è servito a niente. Sì. E legava la resistenza italiana alla resistenza palestinese, in realtà. Quindi è uno dei primi spettacoli che parlava di questo tema, così per dire che le analogie tra i partigiani e situazioni successive non sono solo degli ultimi giorni. Eh no, insomma, qui poi sentitevi però queste due canzoni, perché i testi sono davvero belli, ovviamente, insomma, Dario Fo non è l'ultimo arrivato per scrivere dei testi di canzoni o degli spettacoli di teatro. E poi rientriamo ancora qui con Alessio Lina. Il comandante della mia banda, ex ufficiale a servizio del re, c'ha le madonne, fa suonare la tromba e tutti quanti ci manda a chiamare. Voi mi parete un po' strapenati, parete zingari e no dei soldati. C'è chi ha il berretto e chi ha il burillo, c'è chi ha il panizza, chi non ce l'ha. La giacca a vento ce l'hanno in quattro, due col giaccotto, tre col paltolo e col calzone alla zuava di velluto a coste larghe tipo quelli dei Magù. Lui coi bragoni cavallerizza, lui quelli corti, lui non ce li ha. Tre con le scarpe da militare, due con scarponi da montagnano, uno coi sandali di gomma, lui con scarpe di vernice, con le ghette da rifro. Dio che banda di scombinati, siete banditi, non siete soldati. Comandar voi è un disonore, non può scacciare così l'invasor. 30 divise in grigio verde sono arrivate, mettetele su. Niente divise, l'è la risposta. Siamo banditi, non siamo soldati. Noi combattiamo, ma senza paga, e scombinati vogliamo restare. Noi combattiamo anche per quel contro il tedesco, contro il regime borghese militare, contro i preti e contro il re, contro la sua legge, regolamento e ogni divisa. Noi combattiamo, noi combattiamo per l'uguaglianza, noi combattiamo per la libertà, per l'uguaglianza. Non è il caso che i vestiti siano uguali, tutti verdi di color. Siamo banditi di questo Stato, siamo banditi, non siamo soldati. Noi combattiamo ma senza paga, non abbiamo regole e non vogliamo padrone. Siamo banditi di questo Stato, siamo banditi, non siamo soldati. Siamo banditi, non siamo soldati. Siamo banditi, non siamo soldati. Siamo banditi, non siamo soldati. Siamo banditi. La GAP quando è che arriva non manda lettere né bigliettini e non bussa alla porta. Sei già persona morta che il popolo ti ha condannato. Ingegner della Caproni, il 2 gennaio arriva in taxi. Tornava con due della Muti, suoi guardie personali, e noi lo si va a giustiziare. Quel traditor d'accordo con i tedeschi stava a smantellare la fabbrica, le macchine spediva tutte in Germania dai Krupp. E per salvar le macchine han fatto sciopero generale il capo reparto Trezzini ed altri 7 operai li han messi a San Vittor. È stato l'ingegnere a far la spia ma la pagherà, ci tiene tutti sott'occhio il povero Trezzini e gli altri li han fucilati. Adesso tocca a lui, la gabbia aspetta sotto, sotto ad un semaforo che segna proprio rosso, e addosso si mette a sparar. Pesce Giovanni spara, però prima gli grida, è il nome del mio popolo, ingegnere che t'ammazzo, con le tue guardie d'onore. Fabbrica fanno retate, torturano gente, non parla nessuno. E 30 operai deportati, li chiudono nei vagoni piombati diretti a Dachau. È il 23 d'aprile e i tedeschi vanno a minare la fabbrica. Vogliono farla saltare prima di ritirarsi, piuttosto che lasciarla in mano ai liberatori. Ma gli operai sparano, difendono la fabbrica e salvano le macchine che sono il loro pane, e molti si fanno ammazzare. Adesso siamo liberi, nella fabbrica torna il padrone. Arriva un altro ingegnere, stavolta però è un partigiano, Brigata Battisti, Partito d'Azione. Ma ecco al primo sciopero c'è un gran licenziamento, è stato l'ingegnere a cacciare via quei rossi che la fabbrica aveva salvato. Sta guerra di liberazione domando di cosa che ci ha liberato. Ingegnere, padrone e capi sono tutti democratici, ma noi ci hanno licenziato, addosso ci hanno sparato. Alessio, queste due canzoni, Ciarchi da Rio Fol, comandante della mia banda e la GAP, ecco, ci riportano non solo agli anni 70 in realtà, ma ci riportano anche a una forma forse diversa di percepire la canzone partigiana. C'è l'allegria in queste canzoni, no? Sì, beh, sappiamo che Dario Fo è un genio, è stato un genio proprio nel presentare, a volte anche in maniera poco ortodossa, storie tremende, storie sacre sotto l'occhio deformante del grottesco. E quindi quando riprende, fra l'altro, un altro mito, che è quello dei vestiti partigiani, del fatto che i partigiani, almeno quelli garibaldini, cioè, rifiutassero l'idea della divisa, non volessero mettersi in divisa, anche perché invece il fascismo voleva mettere tutti in divisa, anche i civili. Per cui il loro essere ribelli, come direbbero appunto i ribelli della montagna, partiva dal fatto che rifiutassero la divisa come un inquadramento, come evidentemente fascista. Su questa cosa qui Dario Fo costruisce una specie di quadro di Bruegel geniale, si vede proprio la sua genialità pittorica, in cui ci sono quelli che hanno le divise più disparate, grottesche, e si centra proprio sulla descrizione di quello che c'ha, quelle scarpe lì, quello che c'ha, le scarpe da fantino, con particolari ovviamente del tutto inverosimili, perché va bene tutto, ma non credo che qualcuno non avesse i pantaloni, come dice, o qualcuno, insomma, vabbè, fa tutto questo gioco che è geniale proprio nei suoi tocchi pittorici. L'altra canzone, La Gap, ci tenevo molto a inserirla anche in questa nostra chiacchierata, perché potremmo dire che è una delle poche canzoni dedicate ai gruppi a questa di Azione Partigiana. Ai gruppi di Azione Partigiana, anche perché per ovvie ragioni i partigiani di montagna cantavano, i partigiani di città no, si stavano belli zitti. Eppure sono stati fondamentali, ma anche sono, se vuoi, i partigiani più spinosi come questione, no? Spesso riemerge, pensiamo solo appunto all'attentato di Via Rasella alle fosse ardeatine che vengono quasi, pur avendole fatte appunto i tedeschi, Kappler, eccetera, vengono quasi imputate ai partigiani come se ne avessero colpa in quelle condizioni lì. Certo, certo. Sì, beh, insomma, e comunque sono temi scottanti ancora oggi, I gappisti milanesi vengono in qualche misura accusati di aver provocato, per dire, invece la rappresaglia di Piazzale Loreto, che poi a sua volta genera quell'ulteriore rappresaglia dell'esposizione dei corpi dei gerarchi. Insomma, è un altro dei nodi insanguinati dalla storia, che non abbiamo certo l'ambizione di sciogliere a partire dalle canzoni, ma di cui comunque le canzoni recano traccia, per cui le canzoni diventano uno dei modi possibili di far parlare la storia. E a proposito di canzoni, visto che poco a poco ci avviciniamo alla fine di questa puntata di Zibaldone, qui Radio Libertà, vi ricordo il titolo, ci sta accompagnando Alessio Lega. Alessio, ci sono anche nel tuo libro almeno tre canzoni, se non ricordo male, che hanno a che fare invece con la tradizione napoletana. Parliamo di canzoni degli anni, insomma, 70, giù di lì. E noi ora ce ne andiamo a ascoltare una, quella di Sergio Bruni, Napule non to scurdà, perché ci sono varie canzoni proprio che ricordano anche la resistenza nel napoletano, no? Eh sì, beh, noi abbiamo, ovviamente, sappiamo bene che la resistenza si è giocata a volte con partigiani del sud, abbiamo ricordato i Fratelli di Dio, per esempio, però, come dire, che si trovavano a nord perché facevano i soldati a nord o per altre ragioni, però il sud ha meno protagonismo in questa vicenda qui. Ciò non di meno, non dimentichiamo mai che Napoli è, credo, la prima città europea ad essersi liberata da sola durante queste quattro giornate di insurrezione, peraltro in cui i protagonisti furono gli scugnizzi, furono ragazzini, poco più che bambini veramente, che combatterono e morirono contro. E a questa vicenda molto dolorosa, scioccante per la città, e sono dedicate quasi tutte le canzoni, compresa appunto questa canzone. Mi faceva particolarmente piacere, non è la più famosa, ma mi faceva particolarmente piacere perché è stata interpretata da Sergio Bruni, personaggio che considereremmo completamente avulso da questa storia, dei grandissimi interpreti della tradizione napoletana, diciamo insieme a Roberto Murolo il principale traghettatore della tradizione napoletana nel secondo Novecento. A un certo punto lui sentì il bisogno di scrivere nuove canzoni insieme al poeta Salvatore Palomba, che gli scrisse un intero disco e che scrisse anche questo testo, diciamo, ritmico, detto da, più che cantato da Sergio Bruni, e che appunto ricorda in maniera abbastanza epica questa vicenda di liberazione di Napoli. Fine di settembre del 43, ricordo anche il canto allo scugnizzo dei Musica 9, ossia Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò, parliamo sempre della fine degli anni 70. Ci ascoltiamo questa Napoli non to scurdà, Sergio Bruni. O 28 settembre 43, se degnettere russeggio sommino, fuori balcone matardei. Uomo, femmina, vecchio, guagliuno che sapevano la storia malamente, e guagliuno che non sapevano niente, sapettero lo stesso quello che avevano a fa. No! Napoli non ti scordò, ma qua chitarra e mandolino, o 28 settembre 43, povomera e posillac, per Fontanelli o Ponte a Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia e o scugnizzo cantava ad ven, fatiente carognuni ad ven, strillava, correva, sparava e moreva. Napoli non ti scordò, muoveva senza sapere la libertà, libertà senza discorso, comizi e bandiere, bisogna libertare la pecora e do lupo, bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole, semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napoletano combatteva per cancellare cent'anni la zaruna e la zarunata, Franceschiella e Francescallata, Vermicella, Tarantella, Pulcinella e Colombino, testa, forca e farina, e tutto sti cazzata che l'avevano inguaiata. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napoletano combatteva e moreva per scrivere l'inda storia finalmente, quattro pagine tutto con stessa nome, dignità. Napoli non ti scordò. Napoli non ti scordò. Napoli non to scordà, Sergio Bruni. Alessio, ora andiamo ad ascoltarci una canzone dei Gang, una delle band insomma, che hanno legato la loro carriera, la loro musica, le loro canzoni anche a tutto quello che è la guerra partigiana e che è insomma un impegno civile e politico molto forte. La pianura dei Sette Fratelli è il titolo del brano. Sì, secondo me è proprio del nuovo canto partigiano. Permettimi una piccola considerazione. Negli anni 70, 60 e 70, se vuoi, si è cantata poco la guerra partigiana, con delle eccezioni, ma quelli che sono stati i cantautori del movimento, Pietrangeli, Giovanna Marini, hanno cantato poco negli anni 70, magari le hanno riprese dopo, proprio perché avevano, come dire, si consideravano i nuovi partigiani, si consideravano in nuove storie da raccontare. Invece, intorno agli anni 90, all'inizio degli anni 90, con l'arrivo di Berlusconi, anche perché in qualche misura i diretti eredi del fascismo tornano per la prima volta al governo, diventano ministri, quindi si sente il bisogno di riallacciarsi a questa tradizione, però ovviamente non lo si può più fare secondo l'epica, secondo i criteri dell'epica dei canti originari, e quindi abbiamo, come dire, una narrazione di storie, e diciamo chi ne stabilisce i canoni, potremmo dire, è questo brano dei Gang, i Fratelli Severini, straordinario gruppo che originariamente era un gruppo punk, quindi come dire, era nutrito di tutt'altra cultura musicale, e però racconta in maniera straordinaria, secondo me, bellissima, la storia, l'idea che c'era dietro la famiglia contadina dei Fratelli Cervi, legandosi proprio alla tradizione contadina. Sono gli anni, anche ricordiamolo, poi dei Modena City Ramblers, quindi c'è questa nuova tradizione, come tu dici, che canta la resistenza. Questa La pianura dei sette fratelli dei Gang è tratta dal disco del 93, no? Gang Storie d'Italia, in cui c'era anche un'altra bel brano che tu raccogli anche nel tuo libro Eurialo e Niso, che era scritto da Sandro Severini, in questo caso insieme a Massimo Bubula. Ci andiamo a sentire La pianura dei sette fratelli e poi anche un altro brano di Davide Giromini, di cui parleremo tra poco. E terra e acqua e vento, non c'era tempo per la paura. Nati sotto la stella, quella più bella della pianura. Avevano una falce e mani grandi da contadini. E prima di dormire, un padre nostro come da bambini. Sette figlioli, sette, di pane e miele a chi li do. Sette come le note, una canzone gli canterò. E piogge e neve e gelo, e vola e fuoco insieme al vino. E vanno via i pensieri insieme al fumo su per il camino. Avevano un granaio e il passo a tempo di chi sa ballare, di chi per la vita prende il suo amore e lo sa portare. Sette fratelli, sette, di pane e miele a chi li do. Non li darò alla guerra, all'uomo nero non li darò. Tuono, non c'è perdono per quella notte che gli squadristi vennero e via li portarono coi calci e le botte. Avevano un saluto e degli abbracci, quello più forte. Avevano lo sguardo, quello di chi va incontro alla sorte. Sette figlioli, sette, sette fratelli a chi li do. Ci disse la pianura, questi miei figli mai li scorderò. Sette uomini, sette, sette ferite e sette solchi. Ci disse la pianura, i figli di Alcide non sono mai morti. La pianura da Valle Re ai Campi Rossi, noi ci passammo un giorno e in mezzo alla nebbia ci scoprimmo commossi. sole e vento dell'altura, lascio alla lacrima bianca, per fare del corpo lamento e tortura. Cambio le mie condizioni, l'abito sporco mi dà un'altra forza per vivere nella città. Nuvole avvinca i silenzi del monte sferzati da una ferrovia che nessuno ha mai costruito, ma un giorno è comparsa portandomi via. Ma se questi alberi sanno parlare, gli occhi non chiudano mai all'ombra nera che rompe il silenzio, e dal monte bisogno di fuoco e mortai per inchiodare un destino severo sui rozzi battenti del passo straniero che fece un dì traboccare dai muri le anime del cimitero, del cimitero. Nuvole avvinca, i cannoni del sagro sparano ancora chi passa di là, e nessuno si senta lontano ed escluso dall'ombra latente della civiltà. La banalità del male salì fino al nostro paese, che era quello più alto. Talmente sconosciuto era quel male che la prima delle nostre donne gli si fece incontro con aria festante. Una raffica di scientifico odio in pillole roventi stese un enorme tulipano sul selciato, a ricordare quel liquido rosso che dalla terra sale per animare certe creature viventi, con la promessa di tornare giù alla prima occasione. La necessità di una materiale naturale difesa prese il posto della nominale sacralità del monte. Sacralità rivelatasi vuota e inutile per un paese immerso nel bianco, immolato ad un ricordo nero. E dopo i Gang abbiamo ascoltato Davide Giromini, Cannoni del Sagro. Questo, Alessio, è un brano del 2005 di Davide Giromini. Sì. Beh, oltre a essere un caro amico, un collega con cui ho fatto tante cose, ecco, qualcuno che rispolvera, che ha veramente un soffio epico nel cantare, nell'accompagnarsi con la fisarmonica, quindi, e che è un cantautore di Carrara, quindi, come dire, imbevuto in tutta una serie di storie, di lavoro e di resistenze, insomma la sente molto questa storia qui, e appunto racconta l'eccidio di Vinca, allude a queste vicende molto forti da quelle parti lì, con una canzone veramente innovativa secondo me, pur rispettando i criteri dell'epica partigiana. Noi siamo arrivati ormai alla fine di questa puntata, Alessio, ci rimane il tempo però per parlare di una cosa di cui non abbiamo parlato finora, che è Bella Ciao. Abbiamo cominciato concludere in bellezza, ma anche perché in realtà questo è un circolo che si chiude. Abbiamo cominciato con Fischi al Vento, in una versione tua insieme ad altri cantautori, registrata durante la pandemia, e ora ci ascoltiamo invece una versione del Bella Ciao, che è frutto dello spettacolo che insieme a Riccardo Tesi e tanti altri avete messo in piedi nel 2014, con cui continuate a girare l'Italia e l'Europa nel cinquantesimo di uno spettacolo chiave, no? Il Bella Ciao del 1964. Abbiamo fatto l'altro ieri, la più recente. L'altro ieri in Belgio, se non sbaglio, vero? Belgio, poi ancora a Pistoia, sì. Per dire, questo spettacolo, ovviamente non proprio, cioè i primi anni proprio ha girato moltissimo, abbiamo totalizzato ben oltre le 100 repliche, ora ovviamente insomma va più a rilento perché non è più una novità, ma insomma sono quasi 10 anni che lo faccio, 2014. Sì, e siamo nel 2022. Ma diciamo invece qualcosa su Bella Ciao. Su Bella Ciao potremmo fare una puntata speciale, lo so, ma tenendo presente quello che tu raccontavi prima di Fischi al Vento all'inizio di questo speciale di Zibaldone. E beh, allora, Bella Ciao, io guarda, ti faccio una notazione personale. Quando io sono figlio di genitori sessantottini, militanti extraparlamentari, quindi sono sempre cresciuto in un ambiente, non con i paraocchi, ma insomma politicizzato, per cui era normale parlare anche dell'attualità o delle storie partigiane, eccetera, eccetera. Quando si andava in gita, magari con altri, fra le canzoni che venivano cantate usciva fuori Bella Ciao, che è sempre stata una canzone che piace molto anche ai bambini, e i miei genitori storcevano un po' il naso. Diceva, sì, ma sta canzone democristiana ti fa capire come in qualche modo venisse considerata la quintessenza dell'istituzionalizzazione, perché alla fin fine Bella Ciao è un canto dove si fa giusto un'allusione ai partigiani, ma si parla dell'invasor, non si parla nemmeno dei fascisti. Poi non ci sono bandiere rosse che sventolano come in Fischia il Vento, insomma veniva percepita come uno dei tanti tasselli della istituzionalizzazione della resistenza, della depoliticizzazione della resistenza. Qualche anno dopo, e già siamo in epoca Modena City Rambler, quindi in cui Bella Ciao è tornata a riempire le piazze, a essere cantata magari alla festa, al concertone del 1° maggio, mi trovo in treno, qualcuno nota che ho la chitarra dietro di me e quindi attacca bottone sul discorso delle canzoni e della musica. Mi dice, cosa suoni? Io dico, suono folk, suono canzone d'autore. Guarda, dice, no, a me piace l'hard rock, eccetera. Fa, però comunque su una cosa possiamo andare d'accordo, a me piace la musica comunista. E io dico, che cos'è la musica comunista? E lui, quasi come se dicesse una cosa scontata, mi dice, beh, Bella Ciao, no? E quindi io, ripensando ai miei genitori che si schifavano, veramente mi fa pensare come in qualche modo le canzoni sono più avanti di noi e quindi assumono ruoli diversi in epoche diverse. Per usare una parolaccia, cara gli etnomusicologi, potremmo dire vengono rifunzionalizzate. Eh sì, effettivamente, vengono rifunzionalizzate, così è. Siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone. Qui Radio Libertà ci ha accompagnato, l'avete sentito, Alessio Lega, autore insomma di tantissime cose, da dischi a libri, ma in particolare oggi parlavamo di questo suo ultimo volume che ha curato, La Resistenza in 100 Canti, uscito da pochissimo per i tipi di Mimesis, un libro che è molto bene, secondo me, ed importante avere in casa. Alessio, grazie davvero di averci accompagnato. E, grazie, insomma, Steven, un abbraccio grazie forte a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie a te. In bocca al lupo con questo nuovo libro, con lo spettacolo a cui stai lavorando e insomma di cui ne abbiamo parlato in fin dei conti in questa puntata. E come dicevamo, ci andiamo a sentire la versione di Bella Ciao, che ce ne sono migliaia. Andiamo a sentirci quella che hai fatto tu insieme a Riccardo Tesi e agli altri amici del nuovo Bella Ciao, incisa nel 2014. Buon venerdì sera a tutti, un abbraccio e alla prossima settimana. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno questo è